Agapowan, mio mondo mixtape, volume 1. Non sono nessuno perché nessuno voglio essere, perché voi mi fate schifo come farebbe schifo un herpes. Io rap, voi fate gli haters, io rimo su questo strofone. Voi schiavi o faraone, vita di merda come uno che vive in un furgone, portando una casa avanti, stando sotto a un cazzone, guadagnando poco, non permettendomi nemmeno un pantalone. Molti mi dicono ce la farai campione, altri dicono leva mano coglione. Pago ste bollette, rimango sempre a verde, non ho mai studiato, fra non so niente. Scrivo queste barre con gente alle mie spalle, molti sulle palle, vi scavalco come si fa con le montagne. Assumo solo erbe ed esplodo come un geyser, vomito dappertutto, tutto sulle scarpe, mentre voi fate i fichi, io mi chiamo le vostre partner. Se. Sono sempre attivo mentre risulto negativo, mi tagli boom esplodo, Dio, mangio merda finché non la vomito. Scrivo senza penna tecnologico, un giro di rime ti mando dall'oncologo, troppe normi e dietologo, femminuccia ginecologo. Ti esprimi come un nerd, io ti abbatto e ti sparo dal podio. Io Agapo One rap esprimo odio, tu rappi microfono ute mani olio, rapper famosi solo perché hanno soldi, uno studio e la tipa tosta come mafiosi. Troppo centro commerciale, Bari centro australe, il tuo manager fa cagare, troppo montato, ma vai a lavorare. Suda per i soldi e non chiedere a tuo padre, io do palle quando la tua testa, grazie a cazzo che rimo e do testa. Molti mi odiano perché hanno paura che gli faccio la festa, altri mi adorano, grazie per la saggezza. Venite con me, vi porto dove male non c'è. Una risata e mo' brindiamo io e te, alla faccia dei rapper sfigati come te. Odio tutti, a volte anche me stesso, perché mi hanno trasformato in un fighetto depresso. Voi felice, io triste, e penso se farla finito, continuare su questo sentiero. Se avrò ancora vito, sarò morto prima del tempo, un mistero che risolverò. Non sei mio fratello, non chiamarmi bro. Cammino per le strade col cappello, yo. Scopi le vecchie fra gigolo, a top col microfono, tu flop da deposito. Io king della scena, tu la miccia nella miniera. Boom, non avrei mai scelta la mia room, ultimo piano sulla destra. Odio queste cazzate memorizzate nella testa, voglio un lavaggio del cervello, avanti dottoressa.